Milan subito in porta con Leao. Gol immediato di Leao, sorpreso Sassuolo, meglio non poteva partire il Milan, un gol da record. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Eccoci qui col gol record di Rafael Leao, 6 secondi ci ha messo, nessuno nella storia della Serie A ci ha messo così poco a bucare la porta avversaria, il precedente primato era di Paolo Poggi, 2 dicembre 2001, Fiorentina-Piacenza, poi finita 3-1 per il Piacenza, campionato 2001-2002, Carlo Genta ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Pierluigi Pardo ciao. Ciao a tutti. Bisogna dire la verità, nessuno ci ha mai nemmeno impiegato tanto per far entrare due uomini come se nulla fosse nella propria metà campo e nella propria area di rigore, come la difesa un po' improponibile a inizio partita oggi del Sassuolo. Il Sassuolo forse oggi è abbastanza improponibile, se il parametro è quello che abbiamo visto nelle prime giornate, è improponibile tutto quanto. Poi insomma, gol bizzarro e assolutamente fortuito, ma d'altra parte la partita non è praticamente mai esistita, ne parleremo sì, fino all'89esimo, sì, poi negli ultimi 60 secondi poi lampo finale, sì, sì, beh, entra Bogà che fa una giocata, punizione, errore della barriera e Sassuolo in quel modo lì riesce a così a procurarsi qualche minuto finale da moderati brividi, ma dopo 26 minuti il Milan aveva segnato 3 gol, quello di mezzo annullato, e stava vincendo 2-0, quindi mi sembra abbastanza chiara, no, la lettura di questa gara. Abbastanza lineare. 800 24 00 24. Questo è il numero verde per intervenire in diretta fino alle 19. Vi invito a prenotarvi già adesso. 800 24 00 24. Oppure i vostri sms e whatsapp, anche vocali, 349 238 6666. L'Inter un po' fatica. Ha vinto 2-1 a San Siro contro lo Spezia, anche qui il gol del 2-1 è arrivato ampiamente in tempo di recupero. Mi dai la fotografia di questa domenica fin qui, Pier? Beh, la risposta più grande l'ha data il Milan, nel senso sono due vittorie uguali dal punto di vista del punteggio e sono due vittorie che confermano le ambizioni di queste due squadre, però il coefficiente di difficoltà era oggettivamente diverso. Quindi diciamo che è più telling, come direbbero gli inglesi, è più significativa secondo me la vittoria del Milan, proprio perché c'era emergenza e perché c'era una forza di un avversario, di un campo dove ha vinto anche l'Inter, ha vinto molto bene, quindi poi questo va ovviamente capito. Però insomma, secondo me soprattutto nell'emergenza oggi il Milan ha dato una grande risposta. Allora, sta per iniziare a parlare ai microfoni di Sky, Stefano Pioli, visibilmente sorridente, non potrebbe essere diversamente. Io la chiamo la vittoria della resilienza, e si è visto proprio in quegli ultimi tre minuti in cui il Sassuolo ci ha provato, che insomma il Milan è veramente ridotto ai minimi termini. Milan che ha perso che sì, per la partita con la Lazio, ammonito, era diffidato, già non c'è Bennacer, quindi insomma ci saranno ulteriori difficoltà per Stefano Pioli nell'ultima gara prima di Natale. Adesso appena inizia il suo intervento a Sky ve lo facciamo sentire, la vittoria della resilienza, secondo me in parte anche quella dell'Inter, che chiaramente è una squadra che corre con i macigni nelle gambe in questo momento. Ha fatto una fatica pazzesca a vincere la partita di oggi, primo tempo brutto, molto sotto ritmo. Anche qui episodi, guarda, stiamo proprio in questo momento rivedendo il gol che ha indirizzato la partita di Hakimi, ma su col portiere dello Spezia, parecchio colpevole perché segna su un gol Carlo praticamente in contropiede, no? Punto. Non c'è niente di male a segnare in contropiede, però ha un certo effetto che al 51esimo l'Inter si porti in vantaggio contro lo Spezia in contropiede. Però io sai come la penso, io penso che l'Inter sia fortissima, potenzialmente fortissima. E le grandi stagioni passano anche per delle vittorie non bellissime, per delle vittorie più di inerzia che di guizzo, e quindi secondo me insomma in partite come queste conta soltanto portare a casa il risultato, e vincere 2-1 senza brillare vale esattamente tanto quanto vincere 4-0 certo, dominando. Certo. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Andrea, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora, tra qualche istante sentiamo le prime parole di Pioli. Ci dai la tua fotografia di quello che abbiamo visto fin qui? Ma sono d'accordo con quello che diceva Pierre, nel senso che il Milan chiaramente la partita gli si è messa sul binario giusto dopo 6 secondi, il gol più veloce della storia e quindi del nostro campionato, e quindi non può che essere andato tutto bene, 2-0, poi 2-1, poi sofferenza. L'Inter ci si aspettava una vittoria più convincente, però arriva un'altra vittoria, cioè come dicevamo in uno degli ultimi nostri collegamenti, l'Inter non sta brillando, però dimostra di essere una squadra forte, attrezzata, che si porta a casa il risultato, perché ultimamente lo sta facendo in Serie A, in campionato, con una certa continuità. È ovvio che se si gioca sempre così o se le prestazioni sono sempre queste diventa un problema. Se però le prestazioni migliorano, io credo che sarà fondamentale vedere dopo la sosta di Natale che Inter ci ritroveremo a gennaio, sì, per capire se c'è anche un cambio testa, da quel punto. Con la testa anche un po' più libera oltre che le gambe. Vi faccio sentire allora le prime battute di Pioli mentre Sky adesso vediamo diciamo esattamente quanto è durata l'azione di Leao del gol del 1-0. Pioli: siamo stati molto bravi secondo me sia Brahim Diaz sia Chala a puntare molto bene a portare palla, poi chiaramente Leao a fare questo movimento profondo e a concludere bene. So che noi giornalisti spesso esageriamo, estremizziamo in un senso o nell'altro, e non è che il Milan andasse male da due partite, ma semplicemente non aveva vinto. Oggi questo, lo diceva Ambrosini anche in fase di commento, è un grandissimo segnale. Vincere praticamente 2-0, 2-1 a Sassuolo contro una squadra forte. Sì, io ripeto spesso alla squadra, non spesso, perché però ci sono dei momenti del campionato che tutte le partite valgono dei punti, però ci sono dei momenti dove le partite pesano un po' di più. Chiaro che non eravamo soddisfatti dei nostri due pareggi, perché giochiamo sempre per vincere e avevamo avuto la possibilità di vincerla anche se abbiamo rischiato di perderla, e questa con una squadra molto forte che ha dimostrato anche oggi che ci ha messo in difficoltà, che ha palleggiato molto bene. Era una partita che pesava molto dal punto di vista, non dico della classifica, ma anche dal punto di vista mentale, perché volevamo fare bene, volevamo vincere, e esserci riusciti ci dà grande soddisfazione. Vincere senza. Allora, questo dice Pioli, intanto 6 secondi e 76 centesimi ci ha messo Rafael Leao per segnare il gol più veloce della storia della Serie A. Andrea Di Caro, Luigi Pardo, Carlo Genta. Ha ragione Pioli quando dice ci sono momenti in cui i tre punti pesano un po' di più, le partite pesano un po' di più, e però vi chiedo per cosa pesano? Cioè, qual è la prospettiva? Sì. Ha ragione, perché è chiaro che dopo la notizia dell'infortunio di Ibrahimovic, dopo il pareggio di Genova, dopo la convinzione un po' di tutti che il Milan fosse in frenata, perché aveva perso 4, aveva regalato 4 punti all'Inter nelle ultime due partite, andare a vincere su un campo difficile, su una squadra che gioca bene, ha un peso specifico importante. Cioè, la vittoria oggi del Milan ha un peso specifico diverso dalla vittoria dell'Inter in casa con lo Spezia, su questo non c'è alcun dubbio. Sì, e il motivo di cui parla Pioli, chiaramente, è per una squadra che deve lottare per entrare in Champions League, ma che finché resta nei primi 4 posti e con distacchi eventuali vicini, può sperare anche nel colpo grosso. Io un po' controtendenza penso che anche i due pareggi, penso un po' con Parma e Genoa, non fossero risultati da buttare, proprio per il discorso che faceva prima Pioli, perché erano due gare in cui eri in estrema difficoltà e sei comunque in modo rocambolesco riuscito a fare due punti anche in quelle due partite lì, evitando poi anche la sconfitta che sì, con quello che è una specie si porta di feticcio appunto, sì, dietro. Sì, però meglio oggi. Sì, meglio vincere che pareggiare, amico mio. Il momento la palisse, meglio oggi era un test anche dal punto di vista proprio della forza dell'avversario, al di là del fatto che il Sassuolo è una squadra, e qui si può fare un approfondimento, una squadra che gioca un calcio bellissimo, ma che però se la gioca sempre, insomma, il gol dopo 7 secondi, se vuoi, è addirittura un'esagerazione di questo concetto. Però mi ha deluso, non è che se l'è giocata per prendere un gol in 7 secondi. A me è sembrato un gol da calcetto domenicale tra amici. Allora, cioè, uno batte, corre, entra in area e segna. Il Sassuolo ha mille qualità, fra queste qualità non c'è quella, secondo me, dell'attenzione feroce che magari hanno altre squadre meno forti complessivamente, e che però hanno. Quindi, paradossalmente, può succedere che per le grandi squadre giocare contro una squadra come il Sassuolo senza beccarli nella giornata migliore possa paradossalmente diventare meglio che affrontare una squadra più scarsa, ma che magari vende carissima la pelle. Questo è il concetto, perché poi se guardiamo Sassuolo-Inter, la partita dopo 20 minuti era già sul 2-0, se guardiamo la partita di oggi contro il Milan, lo stesso Roma-Sassuolo, che è stata una partita ricca di episodi, poi certo c'è Napoli, c'è l'ultima mezz'ora di Napoli, insomma, pare tutto, però voglio dirti, oggi secondo me contro un avversario di alta classifica il Milan è sceso in campo bene da subito, ha fatto della propria emergenza una spinta in più, una motivazione in più, una carica in più, a portare a casa 3 punti meravigliosi secondo me. Poi non cambio idea, continuo a pensare che che l'Inter forse anche, anzi senza forse, se la Juve è quella che abbiamo cominciato a intravedere, che abbiamo visto ieri sera, dopo ne parliamo, secondo sì. me hanno qualcosina in più, senza dimenticare il Napoli e la Roma. Della Juventus parliamo a partire dalle 17.30. È indiscutibile. Mm. Sì, io non cambio idea neanche sul fatto, e poi salutiamo Andrea Di Caro, che a gennaio Pioli meriti qualcosa in più del certo. cambiano i programmi. Andrea. Parli di rinnovo di contratto? No, parlo anche del mercato. Oggi sono entrati Aughe, Castileco, Daniel Maldini, per carità, ce n'erano fuori tanti, però in una stagione così il fatto di averne fuori tanti è qualcosa che a rotazione colpisce tutti. Per quel che può valere, ma Sara ha detto di no. Io credo che il Milan debba fare i conti con una preoccupazione. Abbiamo detto tutti dall'inizio dell'anno, vedendo un Ibrahimovic in quelle condizioni, capace di decidere le partite da solo a forza di doppiette, che se Ibra avesse retto fisicamente tutto l'anno a quei livelli, non soltanto concorreva per il pallone d'oro, ma il Milan era da scudetto. Ora, questi problemi che lui ha avuto e che cominciano a far pesare sul piatto della bilancia, no? Il numero di partite giocate rispetto alla totalità delle partite, si vede che Ibra ne ha fatte la metà. Ora, è una casualità o è figlio di un fisico, seppur straordinario, comunque un po' usurato e quindi avanti con l'età, e quindi il Milan deve dotarsi di un piano B? È chiaro che il piano B esistente è un piano B da squadra che può lottare per, secondo me, il quarto posto, può lottare per i primi tre. Se invece a gennaio ti arriva Milik, ti arriva un altro attaccante importante, ti arriva un giocatore che ti serve per rinforzare la rosa, la difesa, quei ruoli che Pioli ritiene giusti, e quindi la fame viene mangiando, a quel punto il Milan si organizza per un piano A, che è il piano di lottare per lo scudetto. Io credo che questo... prospettiva, certo. Il Milan ha fatto il massimo di quello che poteva fare con Ibra e senza Ibra. Più di questo il Milan con Ibra e senza Ibra non poteva fare. Ora sta alla società a capire quali sono i piani e le prospettive. Esatto, anche cosa si vuole fare. Allora, abbiamo il traffico, io ringrazio Andrea Di Caro, grazie. Ciao Andrea. A voi. Ciao, domani, ciao, ciao. A domani sulla Gazzetta dello Sport, ciao. 800 24 0024, vi invito ancora a prenotarvi, siamo insieme fino alle 19, quando torniamo la voce di Conte, c'è Walter Novellino e ci sono anche le vostre voci, se avrete voglia. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Convocati. Allora, se siete d'accordo, parliamo un po' dell'Inter in maniera un po' più approfondita. Siamo d'accordo. In attesa di Antonio Conte. Allora, la mia lettura è che la partita di oggi con lo Spezia, fatte salve ovviamente le differenze di livello dell'avversario, è stata molto simile a Inter-Napoli. Cioè una partita in cui si è visto che l'Inter in questo momento gioca e può giocare al massimo a quella velocità lì. Io credo più che altro in questa fase, in questi giorni, per una questione di condizione atletica. Io penso una cosa che ha detto Francesco Guidolini l'altro giorno proprio da noi, che mi ha colpito, e cioè commentando Inter-Napoli in quella circostanza, e cioè che Conte in qualche modo è consapevole che la squadra in questo momento non vive il suo momento di maggiore esplosività dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, e quindi intelligentemente se la sta giocando un po' così, se la sta giocando con molta prudenza, con molta attenzione, perché sa che in questo momento i risultati possono arrivare anche attraverso una serie di prestazioni, diciamo, senza la mettere alla sesta marcia, andando con la terza o con la quarta, tanto per capirci, perché è importante vincere queste partite aspettando un momento in cui la squadra sarà più brillante. La partita di oggi mi sembra che confermi questa tesi. E ti ripeto, secondo me sono vittorie importanti, molto pesanti. Su Pioli, scusa, volevo anch'io alzare la mano e confermare, cioè attenzione al Milan, perché poi c'è gennaio. Cioè, in questo momento, secondo me, Inter e Juve, forse anche il Napoli, hanno qualche centimetro di vantaggio dal punto di vista della rosa. Poi c'è il mercato di gennaio, che non è un mercato solitamente che stravolge, però è un mercato nel quale si possono puntellare delle situazioni in un anno strano come questo, dove praticamente il mercato non c'è stato. A settembre, può essere un'occasione, quindi se il Milan aggiunge un paio di tasselli giusti, occhio, perché poi magari cambiano le gerarchie. Tornando all'Inter, c'è gennaio, però vuol dire che Maldini e Massara stanno bluffando, perché così hanno detto oggi. Massara ha detto no, non dobbiamo pigliare nessuno, teniamo gli occhi aperti, bla bla bla. Sarebbero però dei pazzi, sarebbero anche dei pazzi secondo a dire, me anche secondo a dire me. Che vogliono cambiare una squadra che sta regalando queste non cambiare No, però bisogna sempre considerare anche l'aspetto psicologico legato ai giocatori. I giocatori del Milan stanno facendo un'impresa, questo è. Bisogna mettersi in piedi tutti e battergli le mani, perché il Milan sta facendo un'impresa. E quindi, adesso stare da parte di dirigenti, oltretutto, intelligenti come loro, a dire che si cerca, che si fa, che si cambia, non la vedo una mossa particolarmente intelligente. Ma è chiaro che se dovesse esserci l'occasione per irrobustire, per trovare un paio di giocatori, un paio di acquisti furbi, secondo me il Milan ci sarà, come ci sono tutte le altre. Walter Novellino, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio anche a voi. Ciao. Non so se hai avuto modo di vedere oggi l'Inter, che impressione ti ha fatto, che impressione ti sta facendo? Ma non bella, secondo me, sotto il punto del gioco, più che altro, delle difficoltà che ha nel imporre il proprio gioco. Chiaro che i giocatori hanno grande qualità, si vincono le partite, però onestamente anche oggi non mi è piaciuta molto l'Inter. L'Inter è una squadra che secondo me potrebbe avere una classifica migliore con gli uomini che ha. Le difficoltà non li conosco, forse, non lo so, però... Ti sembra una squadra stanca, Walter? Fisicamente? No, stanca, no, ma forse mentalmente stanca. Non lo so, non riesco a capire una squadra così, come non è libera nei pensieri nel giocare, nel divertirsi. Ecco, una squadra che secondo me non si diverte. Si diverte poco oggi, nonostante le difficoltà. Ha incontrato lo Spezia, una squadra equilibrata tatticamente, ben messa in campo. Le difficoltà dello Spezia non le ha avute, perché la qualità dell'Inter è un'altra, però onestamente noi non è che abbiamo visto, non so se voi avete visto una grande Inter ultimamente. No. Io non la vedo, e poi le difficoltà ci sono, ma più che altro nel divertirsi, nel giocare, nella libertà del pensiero, nella giocata non la vedo. Anche nel 2-0 ho visto preoccupazione, il 2-1 preoccupazione, non riesco a capire come mai. Io credo che in questo momento molto faccia la condizione atletica, perché secondo me, ad esempio, c'è un giocatore fondamentale come Lukaku che è stanco e che fa fatica in questo momento a tenere sul pallone, ad allungarti, e non è una critica a Lukaku, perché gioca talmente tanto tra nazionale e Inter, che arrivati a metà dicembre ci può anche stare. Quindi in questo momento in campionato è arrivata l'Inter, sei vittorie. sono d'accordo con Walter, ed è giusto secondo me sempre guardare alla prestazione oltre al risultato, e fa onore a Walter e a tutti quelli che amano il calcio guardare le prestazioni, perché il risultato è la maniera più superficiale per guardare al gioco, quindi questo è indiscutibile, io condivido al 100% quello che dice, però nel dire questo bisogna anche guardare quel numero lì, perché quel numero lì comunque comincia a dirci qualcosa, cioè comincia a essere interessante questa differenza che esiste tra la poca oggettiva qualità del gioco che l'Inter esprime e i risultati che comunque in un modo o nell'altro arrivano. Voglio dire, la storia del calcio è piena di squadre non bellissime che poi sono andate a dama vincendo. I risultati ci devono essere, perché quello che ha speso, quella qualità che ha dei giocatori, è chiaro che anche la condizione fisica non è ottimale. A Lukaku lo iniziano a conoscere un po' di più, a non dargli l'appoggio, perché lui se gli dai l'appoggio ti ammazza. Poi ecco, anche nella corsa oggi sembrava un attimino stanco. Sì, ma ci sta, ragazzi, Lukaku sta facendo una quantità di minuti che ammazzerebbe un toro. È un giocatore che è straordinario, ecco. Rivedo un piccolo Petagna in lui, dai, vorrei fare una provocazione. In piccolo, almeno per quello che abbiamo visto, altrimenti poi gli amici da casa si scatenano e si arrabbiano. Paragonato Petagna a Luca. Vedo in Petagna qualcosa che potrebbe essere di Lukaku, quello di far salire la squadra, di tenere palla, di sapersi. Beh, Lukaku è un giocatore straordinario, ci mancherebbe, non vorrei offendere nessuno. Proporzioni, ovviamente. Ma a me è piaciuto molto il paragone che ha fatto Balzaretti su Shaquille O'Neal. Io qualche volta l'ho anche detto in telecronaca, cioè veramente, poi Carlo, figurati, appassionato di basket, esperto di basket. Cioè Lukaku è veramente, dal punto di vista fisico, per quella che è la dimensione del campionato italiano, un giocatore dominante. Non è il giocatore più tecnico, più bello e più estetico della storia del calcio, però è un giocatore che è cresciuto tanto, che fa tantissima quantità che ha questa forza fisica straripante, che veramente gioca la pivot. E tanto è vero che secondo me l'Inter è proprio Lukaku dipendente, ma nel senso più tecnico del termine, nel senso che l'Inter è veramente una squadra che non può prescindere dalla sua fisicità e dal suo essere un punto di riferimento lì davanti, al punto che in certi momenti secondo me porta l'Inter a essere un po' pigra, no? Nel senso che anche Lautaro non mi piace in questo momento. Hai ragione, Walter. È molto più incostante non mi piace tutta questa fase iniziale della stagione. No, ha tutto Lukaku, lui non riesce, ragazzi. Un rendimento strano. Intanto, la differenza di rendimento gigantesca, premesso che Lautaro è un attaccante fantastico ed è anche più bello sicuramente dal punto di vista tecnico a vedersi di Lukaku, ma dal punto di vista della continuità delle prestazioni, del contributo che si dà alla squadra, insomma, no. Beh, Lautaro deve essere come Bryant, sì, se l'Inter vuole vincere, non lo è ancora certamente. Il fatto è che quando hai uno come Lukaku, fai come con l'altro che hai citato, cioè nei momenti di difficoltà gli alzi la palla e questo schiaccia. Bravo, esatto. Sì, intanto sottolineo che oggi Conte ha ritrovato Vidal per qualche minuto e Vidal deve dare certamente di più. E poi sta cominciando a poter usare con un filo più di continuità Stefano Sensi. A me piace molto. Che è la risposta a tanti problemi, secondo me. Esatto. Quanto meno l'alternativa. Poi è uno che gioca corto, è uno che va a prendere palla, la gioca, sa vedere, si sa inserire. A me piace molto. Sì. Grazie Walter. Ciao mister. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Walter Novellino. A proposito delle altre parti della classifica, poi tra poco parliamo della Juventus che abbiamo visto ieri, da segnalare che il presidente del Torino Urbano Cairo, oggi il Toro ha pareggiato 1-1 in casa con il Bologna, partita diciamo poco meno che sufficiente, anche per lo sviluppo degli episodi ha detto che non succede nulla, e la domanda era riferita a un eventuale esonero di Giampaolo. Continua invece a giocare male, a perdere il Genoa, così come ieri ha perso il Crotone. C'è in questo momento, si è scavata una piccola trincea di 4 punti fra le ultime 3, Torino, Genoa, Crotone, quelle che stanno sopra, che sono Fiorentina e Spezia. 800 24 00 24, chiedo un attimo di pazienza a Luisa da Teramo perché sta iniziando a parlare a Sky Antonio Conte, allora lo sentiamo. Gli equilibri, no? Come era, magari era capitato anche l'anno scorso verso la parte finale, sembra che hai trovato la quadratura della tua squadra in tutto e per tutto, perché poi i risultati stanno dicendo questo. Ma questo sinceramente non lo so, sicuramente abbiamo, questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato e, cioè, ben vengano questo tipo di risultati, perché poi quando dai continuità riesci comunque a stare nella zona alta della classifica. E per il resto sapevamo che poteva essere una gara complicata oggi, perché lo Spezia è una squadra ben organizzata, ha cercato di chiuderci tutti gli spazi, poi cercava di ripartire con gli attaccanti, giocatori molto forti fisicamente, bravi ad attaccare lo spazio. Abbiamo concesso poco, al tempo stesso nel primo tempo non abbiamo proprio creato tantissimo. Comunque una buona vittoria, considerato anche il fatto che questa è la nona partita, manca la decima, praticamente stiamo giocando ogni 3 giorni e sicuramente c'è un po' di stanchezza, è inutile nasconderci, però bisogna stringere i denti, cercare di finire nel mio dei modi questo blocco di 10 partite che è iniziato un mese e mezzo fa. Studio. Questo Conte che punta molto sull'aspetto stanchezza, ed è vero, i numeri sono quelli. Poi da metà gennaio Conte avrà quel bonus, quello che si è guadagnato fra virgolette uscendo dall'Europa League e dalla Champions League. Luisa da Teramo, 800 24 00 24. Luisa, buonasera. Volevo dire, non continuate a dire che manca Ibrahimovic, perché manca Ibrahimovic, Gabbia, Pier, Benasser e compagnia cantante. Rebic anche. Punto, aiuto. E uno, due, cioè l'Inter sì, ha 1000 giocatori, però quando il Milan riceveva i rigori, tutti contro il Milan, c'hai i rigori. Ma sono 3 rigori di fila che prende l'Inter per vincere contro lo Spezia. vogliamo dire. Beh, insomma, mi sembra ancora, che oggi ci sia poco da discutere sul rigore, però dopo ne parliamo con Luca Marelli, 18:45. Volevo dire, il Milan non è una squadra, l'Inter è una squadra, c'ha 100 giocatori, stare a un punto solo, cioè, allora dobbiamo fare i complimenti a Pioli, che forse prende un terzo dello stipendio di Conte, anche e un quarto, ha un quinto dei giocatori del Vinte e compagnia cantando, grazie. Guarda Luisa, mi sembra che complimenti a Pioli ne stiamo facendo, che prende un quarto più o meno dello stipendio di Conte, non ha un quinto dei giocatori, ma ne ha molti meno, sì, 5 minuti fa. Sul rigore parleremo con Luca Marelli. Il Milan sta facendo una stagione, ribadisco quello che ho detto 7-8 minuti fa e credo siamo tutti d'accordo, il Milan sta facendo una stagione prodigiosa, merita che ci alziamo tutti i piedi e sottolineiamo quello che sta facendo questa squadra, perché ha probabilmente qualcosa in meno rispetto almeno a quelle altre due, perché stanno giocando in questo momento con un'emergenza incredibile, cioè nonostante sta lì davanti, quindi chapeau assolutamente. Però questa cosa qui, così come la vediamo, secondo me, almeno io la vedo così, come un ottimo motivo per battere le mani al Milan, mi fa pensare che se Inter e Juve proveranno un po' più di continuità e cresceranno un po', insomma, possono dire la loro. Ecco, sì. Questo qui. Perché il Milan stia facendo cose grandiose è banale dirlo, è ovvio, è giusto e lo diciamo. C'è un amico che non si firma, scrive: poiché non avrà le coppe internazionali, Conte potrebbe avere dei mal di pancia nello spogliatoio. È un'ipotesi, e infatti Conte ha chiesto di diminuire in maniera importante il numero dei giocatori a disposizione. Massimo da Varese: considerate che l'Inter ha ripreso la stagione subito dopo la fine della precedente, il Milan invece ha potuto fare la preparazione tranquilla. Se siete onesti, ditelo. Sei onesto? Siamo sì, onesti, allora altrettanto onestamente diciamo che il Milan ha avuto, non perché fosse un complotto, però voglio dire, il Milan ha avuto i preliminari di Europa League, che l'hanno sicuramente un po' condizionato all'inizio, nel senso che ha avuto un calendario particolarmente, però insomma, che l'Inter abbia finito la stagione al 21 di agosto e il Milan al 2, lo diciamo perché siamo onesti insieme a tutto il resto che abbiamo detto. 800 24 00 24, un minuto di pausa, poi rientriamo con la Juventus. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Giustamente arrabbiato perché aveva sbagliato un calcio di rigore, però fortunatamente abbiamo avuto pochi giorni per pensare a questo, ma abbiamo dovuto prepararci subito per la partita di stasera, e ha dimostrato a quanto ci tiene a far gol, meglio ancora se li fa su azione come ha fatto questa sera. L'atteggiamento è la cosa fondamentale, perché non dobbiamo averlo solo quando affronti Barcellona o squadre di questo calibro, ma bisogna averlo con tutte le squadre. Ultimamente lo stiamo facendo bene, quando si entra con questa voglia, con questa determinazione, poi la Juve diventa veramente forte. Senti, ma ce l'hai ancora la maglietta di Superman? La maglietta di Superman la teniamo per il gran finale. E qual è il gran finale, Gigi? Non lo so, sto scherzando, è una battuta. La maglietta di Superman ieri sera l'hanno indossata in due, almeno. Uno era Buffon, l'abbiamo sentito scherzare. L'altro era certamente Ronaldo, cui era rimasto qui, credo, il 4 in pagella diffuso e meritato della partita con l'Atalanta. In parte anche la Juventus. Non so se condividete l'idea che quella vista ieri sera è stata la migliore Juventus di questo campionato. Non dico della stagione perché c'è Barcellona, diciamo di questo campionato. Io l'ho detto ieri in telecronaca, lo confermo, quasi 24 ore dopo. E poi sai, le telecronache, per chi fa le telecronache, in qualche modo le partite di cui fai la telecronaca forse ti rimangono anche un po' più impresse. Io ultimamente ho fatto Juve-Cagliari, che era stata una buona partita, la prima partita secondo me realmente con una idea di manovra e di progetto tattico preciso. Poi Barcellona, che al netto delle difficoltà enormi del Barcellona in questo momento, che non si possono cancellare, però è stata un'impresa comunque andare a vincere 3-0 al Camp Nou, non è così scontato. E poi ieri sera, poi ovviamente le altre le ho viste, quindi le luci che comunque ci sono state, secondo me, tante, ma anche le ombre di Juve-Atalanta, che è stata una partita piena di ritmo, sicuramente la partita di Genova, però insomma la tendenza, il dato politico, così Carlo è contento, secondo me, è che la Juve sta crescendo. A me sembra una squadra più equilibrata, Pierre, mi sembra che abbia un po' di interismo dentro, no? Ha trovato comunque maggiore equilibrio, magari non è bellissima, però comunque anche ieri a Parma, insomma, è come il Milan, dopo 26 minuti oggi vinceva 2-0. Ieri è stata bella, forse la più bella della stagione, sì, sono d'accordo, insomma, e la più continua, perché nei 90 minuti ha avuto una ferocia clamorosa. Fammi salutare Guido Vaciago, che ciao, per Guido. Tutto Sport scrive di Juventus. Ciao Guido, buonasera. Pier, ciao a tutti, buonasera. Io dico bella, affamata, feroce, continua nei 90 minuti, e penso che il problema di Pirlo sia quella continuità, invece trovarla sulla serie di 2, 3, 4, 5 partite. Sì, a me non era neanche dispiaciuta contro l'Atalanta, devo dire la verità, perché tutto sommato l'Atalanta è una grande, quindi era comunque una partita importante. Devo dire, il pareggio, se non staccato ad altri 5 meno onorevoli, intendo dire quello col Benevento, quello col Crotone, tutto sommato sarebbe stato un risultato dignitosissimo, e una partita che dove hai sbagliato un re, dove hai trovato Gollini in formato Yashin, e quindi poi alla fine puoi anche sostenere che potevi meritare di vincere. Detto ciò, sì, la continuità è quello che serve. Io ho notato una cosa strana, le partite più convincenti della Juve, cioè quelle dove c'è stata una grande concentrazione, grande presenza mentale, sono state quelle con Buffon in porta. Può significare qualcosa? Cioè, che ci sia una leadership, una squadra, una squadra che ha... No, ma hai ragione, in una squadra che, diciamo tutti dall'inizio, è in deficit di leadership, di giocatori che hanno giocato e vinto grandi partite, eccetera, anche la presenza fisica di uno come Buffon può non essere casuale, Guido, fai bene a non sottolinearlo. Perché guarda un po' le partite, sono Juve, Spezia-Juve, Cagliari, Barcellona e ieri. Che sono, grosso modo, le partite migliori. Sì, ieri, quando a un certo punto si è percepito dai rumori dello stadio, Buffon che gridava quando è entrato Portanova sul risultato di 3-0, non avevano ancora segnato il quarto, l'avrebbero segnato di lì a poco, ma insomma la partita era in totale controllo, e Buffon che gli grida: dai Porta, io voglio vederti lì soffrire e correre, del resto non me ne frega, diciamo, un accidente, ha detto un'altra parola. Devo dire che è indicativo, cioè sei sul 3-0, pieno controllo, entra il ragazzino e tu gli gridi una roba come se stessi difendendo una finale dei mondiali 1-0 risicato. Sì, sì, sembra incredibile, ma anche la Juve ha bisogno dei capobranco. A me è piaciuta invece la lucidità di Buffon nel leggere che cosa succede adesso. E cioè lui dice: dobbiamo fare punti, visto che, sottinteso, tanti li abbiamo lasciati per strada, perché gennaio è mese di scontri diretti, dobbiamo evitare di drammatizzarli. Allora, 6 gennaio Milan-Juventus, 10 gennaio Juventus-Sassuolo, il 17 Inter-Juventus, il 20 la Supercoppa Italiana contro il Napoli, sempre al netto di quello che succede tra 48 ore, e quindi quando il Collegio di Garanzia del CONI ci dirà se il 13 gennaio, perché poi la data potrebbe essere quella, si giocherà o meno Juve-Napoli. La Coppa Italia. Non è neanche più, non è neanche più quella. Ma sai, di solito la Coppa Italia viene traslocata, viene con dopo, gentilezza, potrebbe essere spostata, ma non ci sono date. Sai che l'altro giorno, quando è arrivata la notizia che la FIGC non si sarebbe costituita al Collegio di Garanzia, che alcuni leggono erroneamente come un'autostrada per il Napoli, però poi ho parlato con la Lega e la Lega mi ha detto: guarda, in linea teorica, perché ovviamente adesso vi spiego cosa vuol dire linea teorica, significa Juve e Napoli in finale di Coppa Italia, in finale di Europa League il Napoli, in finale di Champions la Juve. Certo. Quindi con questa ipotesi qua, il best scenario. Esatto, Juve-Napoli si recupera a maggio. Ecco. Hai capito. Guido, ti posso chiedere per rendere tutto più semplice. Dopodiché, ragazzi, dovevano verificarsi tutti questi eventi, sì, però sì. Non è che adesso la Juve il 13 di gennaio gioca con il Genoa e quindi teoricamente potrebbe non avere neanche tutta questa voglia di infilare eventualmente Juve-Napoli in mezzo al calendario che abbiamo raccontato prima, perché poi lì dopo insomma le situazioni diventano complesse. Mi dici in 30 secondi, Guido, tu che sensazione hai su come va a finire martedì? Non lo so, a me io credo che la sentenza Sandulli era una sentenza molto dura nei toni, forse fin troppo dura nei toni, però era abbastanza chiara quella che era l'intenzione di si voleva preservare il protocollo, un protocollo che tutti hanno rispettato. Se il collegio di garanzia facesse un'eccezione con il Napoli si aprirebbe un vulnus pericoloso. Detto ciò, quello che l'altro giorno si percepiva nelle telefonate tra CONI, Federazione, è che il Napoli abbia diciamo qualche possibilità in più rispetto a prima di rovesciare la sentenza, ma non perché la FIGC non si è costituita, è proprio per un'area perché questo che è un campo di gioco diverso, quello del collegio di garanzia, molto meno tecnico e molto più politico. Io mi sbilancio, secondo me martedì esce, che è molto più probabile che esca che si gioca la partita. Poi ognuno faremo tutti i commenti, faremo tutti i commenti dopo. Anche perché la mia opinione è che sarebbe giusto che la sentenza fosse confermata, più che altro per il rispetto di chi in tutto questo campionato ha fatto di tutto per applicare il protocollo, e quindi mi riferisco a squadre che hanno giocato anche con 7, 8, 9, 10 effettivi in meno, ma hanno rispettato pienamente il protocollo. Dall'altra parte però ti devo dire che il campionato, la classifica con l'asterisco mi darebbe un fastidio incredibile, sì. Soprattutto se poi dovesse decidersi il campionato per uno o due punti, quindi rifacciamo anche Verona-Roma, dai, sì, già che ci siamo, rifacciamo anche Verona-Roma e facciamo finta che il regolamento esista a metà. Verona-Roma è una di quelle cose invece, scusami, dove è chiaro ed è giusto che sia stato applicato quel tipo di verdetto, ma andrebbe cambiato, lo dico, anche qui insomma... Finché siamo rimasti nell'ambito della giustizia calcistica, Pier, anche Juve-Napoli non è stata difficile da leggere, e difatti né il giudice sportivo né Sandulli ci hanno impiegato tanto. Certamente, però Juve-Napoli è una situazione estremamente più complessa legata al fatto, al possibile scontro tra la giustizia sportiva e altri poteri territoriali in tema di sanità. No, adesso non riapro il dibattito. No, tanto abbiamo tempo martedì e mercoledì, sì, ve lo dico già. Ci portiamo avanti col lavoro, ci sarà da discutere. Sentivo la mancanza. Invece quell'altra cosa lì, che ripeto, è stata applicata alla perfezione perché non si poteva non dare 3-0 al Verona, però secondo me è una cosa proprio assurda. Sì, sì, ma questo era a proposito delle classifiche con l'asterisco. Quando c'è l'asterisco c'è un motivo, può piacere o meno stilisticamente, ma se c'è l'asterisco una ragione c'è. Vi devo fermare perché c'è il traffico, allora ringrazio Guido Vaciago. Ciao Guido. Grazie a voi sempre, ciao. Do appuntamento a Paolo da Treviso dopo il GR delle 18, perché adesso ci fermiamo per il traffico un minuto e poi vi vogliamo raccontare la nostra storia di Natale, perché domenica non saremo in onda, è l'unica domenica che saltiamo, questa è l'ultima domenica prima di Natale, e allora ci vogliamo prendere qualche minuto per raccontarvi la nostra storia di Natale. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. At the reception, a glass of wine in her hand. Oggi vi raccontiamo la nostra storia di Natale, che ha un link fortissimo con il calcio, con lo sport di cui noi ci occupiamo, calcio e sport di altissimo livello, anche se a noi, soprattutto oggi, interessano le migliaia di bambini, ragazzi, di persone colpite ogni anno da una diagnosi che significa per la stragrande maggioranza di loro dover rinunciare a quella cosa meravigliosa e fondamentale che è la pratica dello sport. Saluto la professoressa Alessandra Rampazzo, professoressa del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. buonasera a tutti, grazie, è un piacere. Allora, noi parliamo della cardiomiopatia aritmogena, che è sostanzialmente quella patologia del cuore responsabile ogni anno della morte improvvisa, spesso in campo, di 2 persone ogni 100.000 in Italia. È impossibile dimenticare, per chi segue lo sport, i casi Morosini nel 2012, il caso di Puerta, difensore spagnolo del Siviglia. Colpisce ovviamente anche tante persone che non finiscono sui giornali, spesso fortunatamente a livello di diagnosi, ma per tanti ragazzi, per tanti bambini significa sentirsi dire: tu a calcio, a basket, a tennis o qualunque altra cosa ti piacerebbe fare, non puoi giocare. Abbiamo scoperto, grazie alla segnalazione di un amico, che la ricerca silenziosamente ha fatto e sta facendo, professoressa, passi da gigante. Sì, sì, infatti noi ci stiamo occupando degli studi di questa patologia da quasi una trentina d'anni, diciamo, e purtroppo però non esiste una cura, una terapia per questa malattia. Tuttavia i risultati più recenti della nostra ricerca ci portano a invece sperare ad una cura. Una cura sembra infatti finalmente vicina, cioè diciamo che riusciamo a bloccare il meccanismo della malattia improvetta e quindi riusciremo in un prossimo futuro probabilmente ad arrivare ad una cura. Il problema in questo momento è che servono dei fondi per passare appunto alla fase successiva, cioè testare questo farmaco che abbiamo identificato, testarlo su dei modelli animali, per poi arrivare nel giro di 2 o 3 anni, se tutto va bene, alla fase conclusiva, ossia la sperimentazione sull'uomo, sui pazienti. Ecco, cosa significa riuscire a produrre un farmaco? Adesso io lo so che questo è un tema di cui ci stiamo occupando quotidianamente tutti per la questione del Covid, quindi può anche essere abbastanza intuitivo, ma in questo caso che cosa significa la prospettiva, l'idea di riuscire da qui a qualche anno ad avere un farmaco? La prospettiva è proprio questa, cioè bloccare la progressione di questa malattia, come si manifesta. In realtà nei cuori di queste persone che sono affetti, le cellule del cuore muoiono progressivamente e vengono sostituite da un tessuto fibroso e adiposo, una cicatrice di fatto si crea. E questo processo è proprio quello che favorisce lo sviluppo di aritmie che possono provocare l'arresto cardiaco. Questo farmaco che noi abbiamo testato sembra invece bloccare proprio queste cellule, quindi di fatto è già un farmaco prodotto, è disponibile, solo che lo dobbiamo testare su dei modelli animali. Sì. Pier? Beh, io sai, abbiamo in qualche modo, ti ho segnalato questa situazione perché mi sembrava interessante. E tu con sensibilità l'hai portata oggi in onda, e insomma qui noi l'unica cosa che possiamo fare è ovviamente quella di offrire al nostro piccolo un po' di risonanza in un momento nel quale ovviamente si parla molto di scienza, però si parla molto di tutt'altro ovviamente, però ecco, le altre, lo diciamo spesso, no? È stato detto spesso anche durante quest'anno terribile, non è che le altre patologie o gli altri problemi legati alla medicina o alla scienza siano andati in vacanza quest'anno, per cui questo è un tema, hai fatto bene, idealmente questo può sembrare un tema marginale, ma non lo è, perché il diritto al gioco, il diritto allo sport, il diritto al sogno, la possibilità di praticarlo è fondamentale da 1000 punti di vista, aiuta a costruire una società migliore, la pratica dello sport sappiamo che ha anche un'incidenza positiva in termini addirittura di spesa sanitaria, quindi voglio dire assolutamente è un diritto e avanti, insomma, ecco, quello che sarà possibile fare in termini appunto di visibilità mi sembra che nel nostro piccolo, ecco, dobbiamo continuare ad assicurarlo. Proprio in questo, in un mondo ideale e in una notte di Natale, cosa concretamente, quali sono, professoresse, concretamente i passi che bisogna fare? Cioè, qual è la strada? Allora, tra l'altro appunto per questa ricerca non stiamo parlando di cifre esorbitanti, ecco. Si tratterebbe di avere a disposizione circa 200.000 euro. Devo dire che al nostro fianco abbiamo un'associazione, l'associazione GECA Onlus, Giovani e Cuore Aritmico, che ringrazio. Quest'anno festeggia i 20 anni dalla sua nascita e che si è fatta promotrice di una raccolta fondi nella rete del dono con il nome hashtag Cuore Matto. Anche l'associazione La Stella di Lorenzo Onlus ha aderito con generosità, ma serve l'aiuto di tutti ed è questo la nostra richiesta, diciamo. Vogliamo concludere questa ricerca e fare quest'ultimo passo decisivo. Quindi bisogna tirare fuori questi 200.000 euro. Questa è la nostra personalissima lettera di Questa è la nostra lettera di Natale. E aggiungiamo anche il fatto che è un momento, chiaramente lo sappiamo, è il momento più difficile per la società di calcio, perché è un anno orribile anche dal punto di vista economico, con il cash flow che non c'è, con il botteghino che non funziona, eccetera, eccetera. Però insomma la cifra è talmente che si può fare, ecco, sì, per quei livelli è talmente piccolo. Si può fare, va bene. Basta veramente la generosità di 3-4 presidenti e si può fare. Ecco. www.gecaonlus.com per tutti i riferimenti, anche se non siete presidenti di una squadra di calcio di Serie A, noi chiederemo anche ai presidenti di fare il proprio. Grazie alla professoressa Rampazzo. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, buone feste a tutti. Grazie. Grazie ad Alessandra Rampazzo. Abbiamo un paio di minuti prima di lasciare la linea al GR. Vi leggo le formazioni ufficiali. Pierre di Atalanta-Roma, che inizia alle 18. Abbiamo davanti ancora una serata interessante di questa 13ª giornata del campionato di Serie A, perché questa sera poi alle 20.45 c'è Lazio-Napoli. Allora, le formazioni di Atalanta-Roma. L'Atalanta gioca difesa 3 davanti a Gollini con Jim City, Romero e Toloi al posto di Palomino, che era atteso titolare. A centrocampo i quattro sono da destra a sinistra: Atebor, Deron, Freuler e Gosens, poi Pessina e Malinowski alle spalle di Zapata. Come sapete non c'è il Papu Gomez, rottura consumata definitivamente con Gasperini e con l'Atalanta. Nella Roma Miranti in porta, Mancini, Smalling e Ibañez sono i tre della difesa, Karsdorp, Veretout, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola a centrocampo, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko davanti. Che partita vi aspettate, Pier? Bellissima, mi aspetto una partita bellissima che può prendere qualsiasi strada, perché stanno in questo momento, secondo me, bene tutte e due, e quasi uno spareggio, anche se c'è una differenza in classifica di punti in questo momento. Però insomma chi vince stasera, secondo me, fa un rilancio. Nel caso della Roma consoliderebbe una classifica che è già molto buona, nel caso dell'Atalanta secondo me una vittoria stasera scaccerebbe tutto quello che di problematico c'è stato, ovviamente al netto ma della vicenda del Papu Gomez, ma insomma sarebbe l'ennesimo tassello di una squadra che avrebbe a quel punto rimboccato una strada virtuosa dopo gli alti e bassi del periodo Champions. Grazie Pier, a domani. Ciao. A domani. Noi ci fermiamo, c'è il GR, quando torniamo vi racconteremo il primo tempo di Atalanta-Roma, parleremo di quello che accade questa sera tra Lazio e Napoli, parleremo anche di Messi, ieri ha raggiunto un certo Pelé, e poi 18.45 l'appuntamento particolarmente ricco con Varanatomi, con Luca Marelli. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. È Natale e quest'anno sentiamo il bisogno di più serenità e protezione. Oggi che tutto è cambiato, siamo più digitali e quindi più esposti ai rischi del web. Per questo Sara Assicurazioni regala ai già clienti Web Protetto Auto Più. Attivalo gratis sulla tua RC Auto. Tanti auguri da Sara Assicurazioni. Al vostro fianco in ogni tappa, sempre. Messaggio pubblicitario, offerta soggetta a restrizioni, valida sino al 31/3/2021. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it. Palmi sudati? Mani che tremano? Potrebbe essere l'ipoglicemia. Dovresti fermarti a misurare il glucosio, ma non è un buon momento? Rilassati. Puoi scansionare il sensore Freestyle Libre, un modo semplice per misurare i valori del glucosio. Lo puoi fare in qualsiasi momento, ovunque, anche senza puntura al dito. Richiedi un campione gratuito su freestylelibre.it. Il sistema Freestyle Libre è un dispositivo medico CE2797. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Freestyle Libre e i marchi correlati sono di proprietà Abbott. Autoinsal 41220. L'emergenza Covid è stata davvero la sfida più grande del nostro secolo? Ci sono eventi che cambiano il corso della storia, crisi nazionali e internazionali che ci costringono ad affrontare scenari imprevisti. Ne parliamo a Stato di Crisi in esclusiva su TV Loft. Stato di Crisi, il nuovo programma di Antonio Padellaro. Abbonati su tvloft.it e scarica l'app. Ora disponibile anche su Smart TV. Tutti convocati. Ebbene sì, ha segnato la Roma, dopo 2 minuti e qualche secondo è andato via sulla sinistra Mkhitaryan, è entrato abbastanza semplicemente nella difesa dell'Atalanta, ha messo in mezzo un pallone, Dzeko si è staccato dalla marcatura del suo difensore, ma all'altezza dell'area piccola, sì, Giovanni, dell'area difesa da Gollini, ha controllato e senza nemmeno fare grossa fatica ha scaricato in porta. A controllare e a girare da dentro l'area piccola, ora va bene tutto, bravissimo Mkhitaryan, doppio passo da quella palla Dzeko, bravo, così come oggi il Milan su Pioli che studia gli schemi per il calcio d'inizio, ha detto che hanno quattro schemi. Uno ha funzionato perché Çalhanoğlu si fa 30 metri palla al piede e poi serve Leao in... Che ne fa altri 20. Che ne fa altri 20. Teo Hernandez fa un'azione pazzesca con questa di Mkhitaryan sulla sinistra, 70 metri di corsa, grande assist. Però, voglio dire, le difese dove sono? Come sono messe? Allora, Paolo da Treviso, 800 24 00 24. Avete ancora un'ora per prenotarvi e intervenire. Paolo, buonasera. Buonasera a voi. Vai. Buonasera a tutti. Io ho 58 anni, sono tifoso del Milan da 58 anni e 9 mesi. Allora, volevo dire solo una cosa, ai tempi, sì, a tempo scaduto, così che al 92esimo, 93esimo, che sono stati quegli attimi di panico, vedere Romagnoli e non mi ricordo chi, che hanno sventato un'occasione lì in area, che si rialzano da terra e si abbracciano. Allora, secondo me, il lavoro grande di Pioli, e questa riporto questo episodio qui perché è l'ultimo e quindi più fresco nella mia poca memoria che ho, Pioli ha fatto una squadra. Non c'è dubbio. Sì. Ha fatto un capolavoro Pioli fin qui. Poi i risultati aiutano. Una squadra di ragazzi che si aiutano, certo, e che hanno un obiettivo comune. Al, certo, di là del fatto tecnico, assolutamente, cosa, se no non arrivi lì. Sono un allenatore, certo, e non. Il fatto, i risultati poi aiutano ad arrivare ad essere tutti uniti, tutti fratelli, tutti amici, eccetera. Quindi certamente ha ragione l'ascoltatore. È altrettanto vero che, insomma, è questo il momento in cui l'atteggiamento è quello. E il Milan è bravissimo a sfruttarlo. Il Milan ha una profonda convinzione e consapevolezza di quello che sta facendo, credo compresi i limiti. Sì. Che non sono una critica, no. Non sono nemmeno però un dettaglio. Grazie Paolo. Siamo sempre 1-0 per la Roma, ottavo minuto che sta scadendo in questo momento a Bergamo, Atalanta 0 Roma 1. Questa sera, lo abbiamo detto, ore 20:45 c'è una bella partita all'Olimpico di Roma, Lazio contro Napoli. Saluto Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Ciao. Saluto voi. A proposito di allenatori che costruiscono grandi gruppi, che diventano squadre che ci credono, a che punto è il lavoro di Gattuso? Che qualche problemino ce l'ha, per carità, non paragonabile a quelli che sta affrontando Pioli per le assenze nel Milan, però insomma, leggo alla voce indisponibili Mertens, Osimhen e Milik squalificati, Lorenzo Insigne, Milik è un fuori rosa, però insomma significa che qualche problema in attacco ce l'hai. Ma con tutto il rispetto che si deve a Ibrahim, che se ne deve, onestamente, e ciò aumenta tutto quello che sta facendo Pioli, neanche Gattuso, perché Insigne e Mertens assieme fanno più o meno 210 gol, credo, forse 220, e Osimhen rappresenterebbe il futuro, Llorente, che neanche c'è, anche se in panchina, è uno che si porta appresso un po' di esperienza, e Milik si porta appresso tutto quello che non è stato. Però questa è una squadra che ha qualità caratteriali anche, che può uscirne, che viene fuori da una partita onestamente un po' surreale, mi sembra di poter dire, avendola vista e avendo notato lo stupido del Napoli e le prodezze di Handanovic, tornato straordinariamente superlativo, insomma. E quindi vuol dire che pure nell'emergenza, perché a Milano, quando il Napoli costruisce le palle gol, Mertens era già uscito e Insigne era già stato espulso, questa squadra è in grado di far paura. Sì. Gioca contro una signora squadra. Certamente, nelle difficoltà aumentano, insomma, aumenta anche il colpo delle remate, però è curioso notare come il Milan sia ridotto ai minimi termini, ma perché altri non ne ha. Il Napoli, poi bisogna spiegare al marziano che arriva sulla terra, ha comunque Milik fuori rosa e ha comunque Llorente che chissà dov'è, e quindi è chiaro che è in difficoltà in attacco, però è paradossale e curioso notare anche questo. Una volta succedeva il contrario, il potere economico degli altri era nettamente superiore a quello del Napoli, che evidentemente negli anni è stato bravo per costruirsi un organico di questo spessore. Devo dire che prima sentivo Carlo fare una notazione di carattere squisitamente tecnico, che gli vale il tesserino di Coverciano, ma il difensore dove sta? Perché è tutto vero, è tutto molto bello, 6 secondi e Nani di centesimo. 76 centesimi. Ho visto che il Milan ha pubblicato, lo dico per gli onanisti, il Milan ha pubblicato sul suo profilo Twitter 6 secondi e 20 centesimi. Però voglio dire, è stato bravissimo, ci mancherebbe, e applaudiamo la capacità tecnica di Çalhanoğlu, ma come si fa a difesa schierata, mai come in nessun altro caso di una partita, a prendere gol? Difesa schierata in senso stretto, schierata, e quindi sì, ferma lì. Però detto questo, era inchiodato. Bisogna anche avere la mentalità per immaginare di aggredire, e in questo secondo me ha ragione sicuramente, non mente Pioli, non mente Leao, cioè l'idea di rendere comunque il calcio d'inizio una potenziale occasione, tu devi averla in testa, poi 99,99% delle volte non arrivi in porta perché è impossibile se gli altri si muovono. Ma se trovi la domenica pomeriggio in cui gli altri stanno ragionando su quello che hanno mangiato a pranzo, e tu invece di giocarla dietro cominci 1-0, e questa è una questione di testa. E questa è una questione di testa. Certo, no, ma è così. Non vorrei stare nello spogliatoio del Sassuolo alla ripresa degli allenamenti, e soprattutto non vorrei incrociare De Zerbi, come dicevo. Sì, io ho ragione di lui. Sì, io poi insomma mi domando anche perché. Boga, ad esempio, insomma, sarà un mio pallino, però un giocatore che a me piace molto, entra solo nel finale, si procura, guarda caso, la punizione che porta al pareggio. Che porta al 2-1, sì. Sì, che porta al 2-1, naturalmente. E vabbè, oggi non c'era Locatelli, però a me, tutti i meriti che volete al Milan, ma oggi ho visto veramente pochissimo Sassuolo. Sì, ma Sassuolo ha rifatto la partita che aveva fatto già con l'Inter. E credo che, come dicono spesso gli allenatori, è uno dei cavalli di battaglia, ad esempio, di Massimiliano Allegri: nel calcio ci sono le classi. Il Sassuolo gioca un calcio bellissimo, ci fa divertire, meno male che c'è il Sassuolo, poi però quando capita quando arrivano i giocatori che vanno lì squadre e si gioca per il secondo, il primo, il terzo posto, insomma difficilmente il Sassuolo entra in campo con la cattiveria con cui entrano gli altri. Intanto ha colpito il palo la Roma con Spinazzola, un palo su una ripartenza praticamente a porta vuota, con Spinazzola che ha fatto un pallonetto da 30 metri scavalcando Gollini, ed è stato sfortunato perché ha colpito il palo esterno, quindi Roma vicinissima al raddoppio dopo il gol di Dzeko. Volevo capire invece come sta vivendo Antonio Giordano, come sta vivendo Napoli questa settimana che si snoda su una partita in più per Napoli e per il Napoli, che è quella che si gioca martedì al CONI. Ne parlavamo prima con Guido Vaciago, e così sentiamo anche quale aria si respira a Napoli. Ma quella dell'attesa oramai, dopo due sentenze sfavorevoli nessuno si fa illusioni, ma ci sono molte speranze che la giustizia del CONI possa tenere presente tutto ciò che ha detto all'epoca l'ASL 1 e poi l'ASL 2, con i comunicati che hanno impedito al Napoli di partire per Torino, visto che non c'erano le condizioni, dopo i due casi più uno, perché anche un dirigente del Napoli venne colpito dal Covid, e che rendevano, come dire, consigliabile la presenza in casa piuttosto che quella in aereo, in albergo. Il Napoli ha arricchito il proprio la propria formazione di legali, sente di avere le possibilità per poter ribaltare le sentenze tanto del giudice sportivo quanto della Corte d'Appello, però lo sentiva anche un mese fa, quando il professor Sandulli, devo dire, fu abbastanza severo, mi verrebbe da dire anche eccessivamente. Il problema, Antonio, non è il verdetto in sé, il problema è sbugiardare la sentenza che ha scritto Sandulli, perché vorrebbe dire che affermare che ha detto un sacco di fesserie. Ma io non volevo arrivare a questo, però non si può non affermare che dentro quella sentenza ci sono dei giudizi che definirò trancianti e comunque abbastanza equivoci, perché voglio dire, ci manca solo che si parlasse del gioco delle tre carte. Vabbè, equivoci poco, mi sembra insomma che abbia lasciato poco di sottinteso la lettura delle motivazioni di Sandulli. Abbiamo comunque tempo di parlarne nei prossimi 2 o 3 giorni. Grazie Antonio. Sì, buona serata. Ragazzi. In contatto, ciao sì, Antonio. Keep in touch. Keep allora, in intanto touch. 1-0 sempre per la Roma, è passato il primo quarto d'ora a Bergamo, 1-0 per la Roma sull'Atalanta. Ci fermiamo un minuto, traffico, torniamo, andiamo avanti a chiacchierare di questa domenica di calcio. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Roma ancora che si è resa potenzialmente pericolosa con una ripartenza, Atalanta che sta lasciando veramente tanti metri di campo alle spalle della linea dei difensori. Poi c'è stato l'intervento in copertura su Dzeko che stava entrando all'interno dell'area di rigore e l'Atalanta in qualche modo si è salvata. 17esimo minuto, 1-0 per la Roma, calcio d'angolo in favore dei giallorossi che restano in attacco. Stefano Colantuono, ciao. Ciao mister. Buonasera a tutti. Non so se stai vedendo Atalanta-Roma. Sì. Che sì, impressione sì. Ti dà questo primo quarto d'ora? È bella, Roma è partita molto, direi molto bene, insomma. Una partita bella, una partita tutto sommato anche equilibrata. È chiaro che la partenza comunque è appannaggio della Roma che è partita subito forte, in realtà, al bloccato, e ora vedremo come andrà a finire. Ma qual è la prospettiva di questa Roma? Cioè, in questo momento storico, cioè alle 18:19 di domenica 20 dicembre, la Roma è terza insieme alla Juventus, sì, con il peso specifico che potrebbe avere un'eventuale vittoria che in questo momento sta maturando, poi vedremo col proseguo della partita a Bergamo con l'Atalanta. Correre per la Champions, secondo me. Beh, qualora dovesse maturare questa vittoria, ora è lunga comunque, entrerebbe di diritto tra le pretendenti a un campionato di super vertice, direi, di quelle che possono. C'è tutto per la Roma può fare tutto, sì. Molto passa da questa partita, ci mancherebbe, però qualora dovesse vincerla chiaramente si presenterebbe di gran carriera tra le prime posizioni. Poi vedremo se il Milan manterrà questo ritmo. Il Milan sta facendo delle cose straordinarie, secondo me, così come l'Inter, che comunque continua a vincere. Credo che sia, non so quante vittorie ha fatto di fila, la sesta vittoria di fila, quindi possiamo dire brava Fonseca, mister, perché insomma, mi sembra un po' sottovalutato come allenatore, spesso chiacchierato, spesso discusso. Lui è molto bravo anche ad estraniarsi da tutti i vari polentini che gli fischiano addosso. Ha disegnato una Roma che è perfetta per il materiale umano a sua disposizione, per il personale a sua disposizione. Assolutamente sì, ha trovato, credo, la quadratura del tutto, perché con questo sistema di gioco sta giocando bene, sta ottenendo risultati importanti. L'anno scorso, come spesso capita in Italia, quando sei in un campionato nuovo devi un attimino trovare le giuste misure, però bene, direi molto bene. La Roma piace, gioca, diverte, fa gol. Che possiamo dire? E ripeto, vincendo stasera, secondo me si proietta in una posizione molto molto molto interessante e non è precluso nulla per la Roma. A Gasperini invece cosa diciamo? Se a Fonseca quanto è complesso per un allenatore gestire una cosa come quella che sta succedendo ed è successa a Bergamo? Beh, sai, parlare di quella situazione rimane molto difficile, perché bisogna viverla da vicino. È chiaro che qualcosa comunque è successo, e credo a questo punto anche qualcosa di estremamente, posso immaginare, grave. Spiacevole, insomma, sì. Sì, diciamo spiacevole. Mai avrei potuto immaginare che l'Atalanta potesse fare a meno del Papu Gomez, che è un giocatore che sposta totalmente l'equilibrio. Però non dimentico io che la maturazione del Papu Gomez e questa esplosione, Papu Gomez era già forte, ma forte come adesso, come negli ultimi anni, non l'avevamo mai visto. E questo è il merito totalmente di Gasperini, che è riuscito anche a cambiargli, secondo me, il modo di giocare, perché io Papu Gomez lo conosco, in Italia è ritornato sotto la mia gestione, ma giocava terzo d'attacco, certo, spostato in un ruolo che aveva sempre fatto a Catania con grandi risultati. Però poi l'interpretazione tattica che il Papu Gomez ci ha offerto in questi anni era totalmente diversa da come giocava, e questo è il gran merito di Gasperini. Non può essere che questa Atalanta non sia più in grado di reggere un attaccante che gioca tutto campista, e che forse questa sia il seme della discordia. Ma non lo so, questo qui, queste sono cose che sono uscite fuori in questi giorni, perché ora ho sentito l'intervista stasera anche di Pessina, dice hanno trovato un certo tipo di equilibrio, ma se vogliamo l'equilibrio ce l'avevano anche prima, insomma, non credo. Può anche giocare Papu Gomez insieme a Pessina, stasera gioca Malinowski, che è un giocatore comunque che c'ha caratteristiche offensive. Probabilmente deve essere successo qualcosa nei rapporti. Ed è chiaro che poi è stata fatta una scelta. La società credo che abbia appoggiato la linea del tecnico, tanto è vero che non è stato convocato il Papu. Ripeto, è un peccato, perché insomma l'Atalanta in questi anni si è fatto divertire tantissimo in quella maniera là, col Papu Gomez dentro. Però vanno rispettate le scelte, insomma, loro sanno cosa è accaduto. Sì, solitamente una società che in una situazione come questa si schiera con l'allenatore dà un segnale anche al resto dello spogliatoio, certo. Poi c'è tempo per regolare i conti magari col certo. Passare dei mesi verso il finale di stagione. 22esimo, sempre 1-0 per la Roma a Bergamo contro l'Atalanta. Chiede un amico, e giro la domanda a Stefano Colantuono, che cosa succede alla Lazio, che sta facendo veramente fatica, anche se poi osservavo una statistica: negli ultimi anni, anche con Simone Inzaghi, le partenze della Lazio raramente sono state rapide. Sì, intanto diciamo che in Champions ha fatto una cosa che erano anni che capitava, stabilito regole, no? Quindi ha fatto molto bene nell'altro campionato, chiamiamolo così. In questo è attardata. Stasera è una partita, anche lei una partita importante. È quasi un'ultima spiaggia ragionamento di un certo tipo. Esatto, la può rilanciare vincendola nelle posizioni più vicine a quelle importanti, però c'è assolutamente bisogno di vincerla stasera questa partita per non staccarsi troppo da quel treno. Senti, ma l'Inter che vince così e che fa discutere e chiacchierare... che ad esempio prima abbiamo sentito Walter Novellino dice così non puoi giocare, così non va bene, non va bene, però dall'altro lato può essere anche un bel segno, se tu fai tutta sta fatica, non sei ancora a posto e vinci 6 partite consecutive e sei lì davanti per l'Inter, ma vale anche per la Juventus questo discorso, proprio esatto. Così messo male non sei, direi proprio di no, perché appunto come dicevi poc'anzi, se non sei bellissimo, diciamo così, perché comunque quando vinci hai problemi, non è che vinci 6 partite di fila per caso. Sì, probabilmente non sarei brillantissimo, ma probabilmente hai fatto meglio degli altri. E se vinci 6 partite e ancora non sei al top e ancora non ti esprimi quando magari come vorresti, quando ci arrivi che fai? Appunto, il campionato. Bravo. Esatto. Vincere 6 partite di fila non è... io dico sempre questo qua, non si vince per caso. Una partita puoi vincere perché sei fortunato, top 2 perché l'episodio, ma 6 sono tante. Sì. E se ne vinci 6 di fila significa che hai fatto meglio degli altri. Verona-Inter mercoledì è un bel test prima di prendersi qualche giorno di riposo. Un gol come quello di Leao al primo minuto, al primo secondo di fatto, di Sassuolo-Milan, è un gol che si può preparare? O insomma, se non c'è l'aiuto di quelli che stanno dall'altra parte, non lo segni mai. E poi aggiungo: se Stefano Colantuono è in panchina, che cosa fa martedì quando si ritrova a fare allenamento? Mi è capitato sicuramente in carriera, non ricordo bene, di prendere gol dopo poco, non dopo 6 secondi, perché mi sembra che siano 6 secondi. 6 secondi e spicci, sì. Record credo mondiale. Record, per il momento ci fermiamo al record per la Serie A. Poi ho visto che c'è qualcuno che ha segnato tirando direttamente, sai che adesso sì. Si può, no? Quindi sì, sicuramente sì. Ci ha messo meno di 6 secondi, ma in Serie A questo è il record. Beh certo, è un bel viatico per andare a gestire la partita, perché comunque la partita del Milan non era facile. Il Sassuolo è una splendida realtà, ce l'ha dimostrato in questo inizio di campionato. È chiaro che se parti così ti mette su un buon binario la gara e riesci sicuramente a farla meglio. Ma si può preparare in allenamento? Adesso no, facciamo un gol in 6-7 secondi. No, si fanno delle partenze preparate in allenamento per il calcio d'inizio, viene chiamato, no? Provi due cose, metti su palla, vai a cercare chiaramente una spizzicata, una giocata, però insomma non credo che sia una cosa... lo schema è: se vedi che gli altri stanno dormendo, se vedi che gli altri sono frastornati, stanno ancora facendo la pennica, allora facciamo quella roba lì. Però devono dormire gli altri. Sì, infatti, ci deve essere molto da base degli altri. Io non ricordo il gol di Poggi, era il precedente record. Paolino Poggi. Devo dire la verità, non lo ricordo. Ricordo benissimo invece l'altro, quello da 9 secondi, che era un Inter Cesena Matteoli. Anche quello nasceva era l'Inter di Trappattoni, da uno schema studiato. La palla andava indietro, Matteus faceva un lancio di 50 metri, e si vedeva che cosa succedeva. Serena andava al limite dell'area di rigore e provava a dare la seconda palla quel giorno, poi Matteoli al volo dal limite dell'area aveva preso l'incrocio dei pali. Lì, diciamo, non c'era la complicità dei difensori del Cesena, era venuto tutto come non ti verrà mai nella vita. Però, quanti secondi? 9 secondi. 9 secondi. Che no, insomma, non è male, eh. Ma il Cesena dormiva, evidentemente. Eccezionale, anche 9 secondi. Per chiudere, Stefano Colantuono, quanto devono avere paura Torino e Genoa, che continuano a inseguire infatti, senza trovarlo trovarla la scintilla? Devono stare attenti, perché tra le altre cose vorrei menzionare il buon campionato di Pippo Inzaghi a Benevento, che ha 15 punti, si è messo a 8 punti appunto da Genova e Torino. 8 punti sono un buon bottino, è chiaro, devono continuare così, per cui mi fa piacere menzionare il Benevento, che non è promosso, sta facendo un gran bel campionato, oserei quasi dire una sorta di sorpresa, perché sicuramente non ce lo aspettavamo lì nella media alta classifica. È chiaro che Genova e Torino devono ricominciare a vincere qualche partita, altrimenti ora le più vicine sono a 4 punti, e quindi bisogna stare attenti. Devono 4 punti con 25 partite di campionato da fare non sono nulla. Il problema è che se non sei abituato, e Torino e Genova non sono abituate, a stare lì sotto rischi di trascinarti, no? Credo che erano state costruite per fare un campionato diverso da quello che stanno facendo. E il rischio grosso può essere questo, però insomma io credo che hanno i mezzi, la rosa e gli allenatori in particolar modo bravi per venire fuori da questa situazione. Ora bisognerà vedere, poi sai, in Italia purtroppo la pazienza ce n'è sempre poca, però io credo che se riusciranno a mantenere la tranquillità e a ricompattarsi, sono due squadre che con quel tipo di classifica a mio avviso c'entrano poco. Ma Marana e Giampaolo sono due allenatori da progetto, giochisti, chiamiamoli così. Sì, assolutissimamente sì, vanno aspettati. Vanno aspettati, perché poi la tentazione che ti viene invece di affidarti agli specialisti della salvezza, quelli che ti fanno il punticino qui, il punticino lì, e piano piano ti tirano fuori dalle secche. Grazie Stefano. Dai. Dimmi. Grazie a voi. Vai. No, volevo dire, in questi casi qua gli allenatori sono bravissimi. Se fai il cambio è per dare solo uno sole, perché gli allenatori che sono alla guida adesso delle due squadre sono di bellissimo livello. Grazie Stefano. Ciao mister. Grazie a voi, buon lavoro, buona ciao, serata. Ciao. Grazie a Stefano Colantuono. 29esimo minuto a Bergamo. La Roma continua a condurre 1-0 sull'Atalanta. Gol di Dzeko al terzo, poi al nono ha colpito un palo con Spinazzola. Partita che adesso si è un po' equilibrata. L'Atalanta, pur non avendo creato grandissime occasioni, piano piano sta salendo di intensità e sta salendo di metri sul campo. Noi ci fermiamo, una piccola pausa, e poi parleremo di un certo Messi, che ieri ha raggiunto un'altra leggenda come Pelé. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Dorrei Lionel dal Monstra Calabona, la leggenda, la storia del football, la storia del Barça, della Liga e anche del football mundial. Ara igual amb la samarreta del Barça als gols que va fer Pelé amb el Santos. Io resterei tutta la sera ad ascoltare i narratori spagnoli. Anche se. Sinceramente, vabbè, credo abbiano descritto un rigore, se non sbaglio. Sì, no, ma beh, infatti, bellissimo, però per tutta questa cosa, per un rigore pizzico di enfasi del Messi più sgonfio che la storia ricordi, va bene, poi i record sono record. 643 gol con la maglia di un singolo club, esattamente come Pelé con la maglia del Santos. Filippo Maria Ricci, ciao. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Due cose però. che prima che erano in catalano, che se vi sentono che avete detto che sono spagnoli, vabbè, ma noi fino a lì non c'è la guerra, sì. Incidente diplomatico, quindi, lo dico per voi, facciamo rettifica. Facciamo rettifica. Sì, lo dico perché lo dico per queste voi. Cose non si scherza. E secondo, sì, era un rigore, però il rigore lo sbaglia a proposito di sgonfio e poi segna quasi schiantandosi contro il palo di testa sul ribalzo che aveva preso Jordi Alba. E, sì, e poi l'altra cosa che mi fa ridere è che qui nessuno lo sa quanti sono questi gol di Pelé, perché lo stesso Pelé in Brasile dicono che sono 642 quelli di Pelé, quindi li avrebbe già superato. Invece però noi in Italia avevamo sempre detto 644, adesso gli spagnoli dicono 643, comunque via, più o meno il record è suo, via. Sì, perché tanto, ieri sera nel tweet Pelé gli ha dato già il record a Messi, perché in Brasile c'è un gol in meno, sono gol degli anni 60 che ballano e vabbè, insomma, per quello che di cui è difficile comunque anche trovare traccia ufficiale a volte. Esatto, esatto. Poi a Pelé a un certo punto gli davano anche i gol quando andava a giocare sulla spiaggia, per cui sì, insomma, vabbè, insomma, e quindi è così. Sì, però... certo che tra i due record, insomma, se bisogna pesarne uno, pesare l'importanza dei gol e soprattutto pesare i trofei dove sono stati vinti, insomma, quello di Messi non ti dico che vale di più, per carità. Beh, insomma, sì, sono altre epoche, però sì, sì, insomma, sono gol più difficili, sono epoche diverse, però va bene, dai, è interessante. Adesso c'è Ronaldo in caccia anche lui di Pelé, no, per i gol in generale, e anche lì i numeri che ballano clamorosamente, però è divertente comunque, insomma, non alla fine tanto Ronaldo come Messi, cioè, dovevano superarlo a Pelé e lo faranno, insomma, ecco, poi... Sì, è il divertimento della parte finale di carriera di due straordinari calciatori come Messi e Ronaldo. Mi chiedo se anche tutta questa enfasi che accompagna ciò che Messi sta facendo, pochino a dire la verità, in questa prima fase della stagione col Barcellona, serva a provare a rivitalizzarlo, a rimotivarlo dopo tutte le vicende che abbiamo narrato in questi mesi. Sì, la lettura è quella corretta, cercano di farlo contento, che sia contento, e non lo è, si vede chiaramente. Voglio dire, siamo passati da giocare, no, con Neymar, Suarez o Ronaldinho, adesso recuperiamo, sì. Per cui insomma è una situazione complicata per Messi. Sì, bisogna vedere chi eleggono come presidente, se qualcuno di suo gradimento, sì, oppure però, no. Però non è, il problema non è solo il presidente, perché sì, adesso il problema è che non ci sono soldi e non ce ne saranno. Cioè, oggi Florentino Perez, parlando diciamo all'assemblea del Real Madrid, ha detto che non riapriranno gli stadi fino diciamo alla fine della stagione. Tebas vorrebbe riaprirli prima, però anche se li riaprono, magari riaprono con 2-3 mila persone. E al Camp Nou ci andavano 95.000 persone nelle grandi partite e magari 60-70 nelle partite minori, e il museo era il terzo museo più visitato di Spagna. Sono soldi che non arrivano, e quindi Messi comunque quello stipendio non so più chi glielo darà, no? I suoi famosi 50 netti, e per cui la situazione, anche qualsiasi presidente non è che dice guarda, ferma di qua che ti faccio la squadra, no, non gliela potranno rifare, devono andare avanti con gli uomini che hanno ora, per cui è complicato, è difficile pensare che Messi possa restare in questo Barcellona. Appunto, se l'assegna ad un finale di carriera in una squadra non più in grado di essere protagonista, ma solo con primaria in Europa come in Spagna, a maggior ragione. Non lo so, però anche non è che poi può andare da tante altre parti, perché sì, si parla tanto del Paris Saint-Germain, però guardate lì la situazione a livello di contratto televisivo, poi dici no, Paris Saint-Germain fa come gli pare. Sì, è vero, però non completamente, no? Per cui non lo so, è difficile pensare anche al prossimo calciomercato, no? La situazione è complicata a livello economico, per cui è Messi, si vede, ma è un po' depresso, insomma, deve far tutto lui, perché comunque questo è, e non gli viene più come una volta. Io oggi l'ho scritto, no? Le punizioni non entrano, i dribbling a volte sì, a volte no, i tiri, cioè ha fatto partite, io in questa stagione gli ho visto fare anche 10 tiri e poi però magari non riesce a segnare, perché deve far tutto lui e non ha dei grandi partner, e così va la vita. Cioè Griezmann, Coutinho, gente costata carissima e che non sta rendendo. E questa è la situazione, insomma, vedremo. Intanto da approfondire, è stato espulso qualcuno nella panchina dell'Atalanta, credo il vice di Gasperini. Che si sta allontanando. A proposito di schemi strani, abbiamo visto lo schema su una punizione dal limite dell'Atalanta abbastanza particolare, con una prima barriera di tre giocatori atalantini che hanno cominciato a correre come dei forsennati verso la porta della Roma nel momento della battuta, con Spinazzola sdraiato per terra dietro. Sì, il risultato è che il pallone è finito sulla barriera, esatto. senza grandissima gloria, però insomma, visto che poi ogni tanto queste cose funzionano, no? Ce l'ha spiegato oggi il Milan, che si può studiare di fare un gol nei primi sei secondi. Tornando al Barcellona, intanto il Barcellona che in questo momento è fuori dalla zona Champions League, è quinto, 21 punti, ma la stagione è ancora lunga. Il paradosso è che questa sera vedremo il Real Madrid contro l'Eibar. In altri tempi sarebbe stata partita da due fisso, perché il Real gioca fuori casa. Nella Liga di questa stagione mai dire mai. No, è una Liga interessante. Il Real Madrid ha già perso in casa, perso fuori, e per me comunque adesso è in un momento, diciamo, migliore, probabilmente il miglior momento della stagione, per me la grande incognita di questa Liga è vedere se alla fine l'Atletico Madrid riuscirà a tenere, no? Sai benissimo cosa succede, io e te lo sappiamo, è l'anno di Lutero Conte e di Calvino Simeone. sarebbe interessante, perché insomma ci vuole una, anche appunto per cambiare alla fine, no? Oggi il Ciolo festeggia i 9 anni sulla panchina dell'Atletico Madrid, no? Un club che ha preso, che era quasi in zona di retrocessione, eliminato dall'Albacete in Coppa del Re, e l'ha trasformato completamente, con, ovviamente con alti e bassi, no? Altissimi, e poi diciamo non sempre abituato bene, non sempre poi regge il ritmo, però questo è sicuramente l'anno per approfittarne, no? Ha 3 punti di vantaggio sulla Madrid con una partita in meno, il Barcellona addirittura -8 con una partita in più, per cui insomma vediamo come. Per me dipende la realtà della Liga più che dal Madrid, che alla fine riesce sempre a cavarsela, dipende dall'Atletico Madrid, le altre si stanno, la Real Sociedad si è sgonfiata, insomma Siviglia così, alla fine sarà un duello tra Atletico e Real Madrid, per come la vedo io. Senza grossi problemi sulla qualità del gioco, come è successo invece in passato, perché quella di Reale e Barcellona in questo momento è talmente bassa, esatto, e poi l'Atletico è migliorato. Sì, mi piace molto, per esempio comincia a giocare con Carrasco come, diciamo, quinto elemento a sinistra, una difesa 5 con Carrasco e Trippier, ieri c'era solo Koke di centrocampista difensivo, il resto sono tutti giocatori di profilo offensivo, ha spostato Marcos Llorente più in avanti, c'è Lemar, appunto Carrasco, João Félix, Luis Suarez. Quindi non possiamo più parlare di ciolismo. No, assolutamente, l'Atletico è molto più piacevole dopo anni veramente noiosi, era brutto, io ho visto tante partite dell'Atletico assolutamente noiose, adesso è una squadra piacevole, divertente, che crea gioco. Perché si è affidato ai vecchiacci, è andato a pescarsi Luis Suarez, è andato a ripescare Carrasco in Cina. Sì. Luis Suarez comunque 7 gol, insomma, l'italiano è quello che è, però insomma, alla fine 2 gol li fa, per quello dipende dall'Atletico. Se col Barcellona in queste condizioni, a meno che insomma non riesca a ritrovare ieri il Barcellona cercava la terza vittoria consecutiva e non l'ha trovata, tu dicevi prima, un tempo sarebbe stato due fisso un Eibar Real Madrid, ma pensa al Barcellona che non riesce a vincere 3 partite di fila in una Liga, quando non lo so, ne vinceva 10-15, questa è la realtà. Per cui l'Atletico ha una grande possibilità, ovviamente il Ciolo continua a dire che non bisogna indicarli come favoriti, al massimo come contendenti. Stessa cosa che dice Conte, guarda caso. Assomiglia molto a quello che dice Conte. Siamo lì, no? Assolutamente. Una volta 3 vittorie di fila per il Barcellona erano routine. Si faceva colazione prima di scendere in campo, poi dopo si cominciava a ragionare di cose serie. Grazie Filippo. Ciao Filo, a presto. Voi. Ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci. Siamo arrivati negli ultimi 3 minuti e mezzo del primo tempo di Atalanta-Roma, partita che si è abbassata di velocità ma non di intensità. No, bella partita comunque, bella partita, perché l'Atalanta mi sembra sia un po' cresciuta e si sia un po' sistemata meglio in campo. Adesso è una buona palla, mi sembra che sia Malinowski che ha perso il tempo per provare a concludere, ma c'era una superiorità numerica dell'Atalanta dentro l'area di rigore, nata da un traversone assist di Duván Zapata, lisciato da un primo giocatore dell'Atalanta, palla sul dischetto praticamente per Malinowski, che però ha perso un tempo di gioco di più rispetto al necessario per andare a concludere, credo sia stato fermato, se non vedo male, da Ibanez, che poi si è anche fatto male, certo. Ha messo il pallone in calcio d'angolo. Atalanta però che ha avuto potenzialmente una grande occasione, perché questa era una grande occasione, no, una sorta di rigore in movimento per trovare il pareggio. Partita male, sta giocando nettamente meglio l'Atalanta, semmai anche un po' sistemata dietro, onestamente. Ibanez a terra, 1-0 per la Roma, 43esimo minuto del primo tempo, ci fermiamo, il traffico, poi VAR Anatomy. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Viviamo insieme l'ultimo minuto del primo tempo di Atalanta-Roma. Non era calcio d'angolo nel frattempo, quello che vi abbiamo raccontato prima. Ibanez si è alzato e ha ritrovato il suo posto al centro della difesa della Roma. Atalanta che adesso butta via un pallone. Oggi è stata una giornata di risultati importanti, in attesa del Real Madrid anche negli altri campionati. Ad esempio è caduto in casa il Tottenham contro il Leicester e dunque Mourinho vede allontanarsi Klopp, che ieri ha vinto facile 7-0 in trasferta sul campo del Crystal Palace. Sta vincendo 4-1 il Manchester United, che gioca in casa contro il Leeds. Anche in Premier mi sembra che piano piano i valori si stiano riallineando. Mi sembra del tutto normale, no? come sempre succede su una maratona come il campionato, la classifica può essere bizzarra finché vuoi, ma poi i valori emergono. Ad esempio, cioè, a proposito di risultati importanti, ieri hai visto come ha vinto il Bayern Monaco, nel segno di quello che secondo Ronaldo non doveva essere il miglior giocatore della stagione che stiamo vivendo, cioè Robert Lewandowski. Giocava sul campo del Bayer Leverkusen, che era primo in classifica, è andato sotto e poi è arrivato il signor Lewandowski. Sì, Lewandowski che dovrebbe chiedere i danni a chi ha deciso di sospendere il pallone d'oro in questo 2020, perché l'avrebbe vinto e meritatamente a mani basse. VAR Anatomy. VAR Anatomy con Luca Marelli. Tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, vi daremo poi il corso di VAR Anatomy, il finale del primo tempo di Atalanta-Roma. Partiamo da quello che abbiamo visto oggi pomeriggio, poi facciamo un approfondimento invece su Fiorentina-Verona di ieri. Se sei d'accordo, io partirei da Inter-Spezia 2-1, arbitro Fabbri, al VAR Valeri, episodio al 23esimo del secondo tempo. Il tocco di braccio di Nzola su cross di Sensi, che in un primo momento Fabbri giudica regolare, salvo poi essere richiamato al VAR da Valeri. Off-field review obbligatoria, braccio larghissimo, la distanza tra Sensi e Nzola è molto ampia, stiamo parlando di 6-7 metri almeno, sicuramente un braccio in posizione non congrua, fuori occupa uno spazio corporeo molto più ampio, volume aumentato, direi che ci sono pochissimi dubbi. Mi lascia un po' perplesso il fatto che Scatragli, l'assistente numero 2, non lo abbia visto in campo, non abbia aiutato Fabbri. Ecco, questo mi lascia un po' perplesso. Era perfettamente in linea, si vede. E stava guardando proprio lì. Stava guardando lì, ma come faceva notare Giovanni prima, l'arbitro io sinceramente non ho visto come fosse posizionato, ma guarda, Line, tu lo vedi, vede perfettamente un episodio che è chiaramente, è indiscutibile, no? Sul fatto che sia rigore. Guarda, sai perché potrebbe non averlo visto Fabbri? Perché era di lato. Lui probabilmente non ha proprio visto, perché ha visto braccio e busto in un'unica figura e non ha. Se guardi l'immagine si vede proprio che è di taglio rispetto al giocatore. So che è difficile da capire, però è proprio questo il concetto, che ogni tanto può capitare che nonostante il braccio sia larghissimo, lo prenda con la mano piena, dà la prospettiva schiaccia talmente tanto che sembra averlo preso col busto. L'assistente invece non può sbagliare in quel caso. Sassuolo Milan 1-2, arbitro Mariani, al VAR Doveri. Nel primo tempo, al nono minuto, gol annullato a Çalhanoğlu. Ci siamo chiesti in tanti nell'immediatezza che cosa stessero controllando, invece molto bravi quelli del VAR a pescare un offside di 20-30 centimetri di Saelemaekers quasi a centrocampo a inizio azione. Direi insomma che la possiamo descrivere così. Esatto. Hai detto tutto tu, perché l'unica precisazione è che è la stessa app, cioè non è mai cambiato il possesso del pallone dal lancio di Kalulu fino alla rete, perciò è giusto tornare indietro perché bisogna controllare tutta l'azione. Benevento Genoa 2-0, Giua arbitro, Nasca al VAR, ultimo minuto del primo tempo, le Rager su Caprari. Rigore, netto. Io sinceramente in questo caso non capisco per quale motivo il VAR non sia intervenuto, perché è vero che Giua era in controllo dell'azione, si trovava anche a pochi metri, però questo è un episodio sul quale non c'è discussione, cioè non c'è, per capirci, è uno sgambetto netto. Assolutamente, non c'è è un contrasto alto, non è una spinta, non è una spallata, non è una trattenuta, cioè non è tutta quella serie, adesso abbiamo fatto un po' di casistica, di contatti in cui tu dici, beh, l'arbitro dal campo ha qualche elemento in più per valutare l'intensità o quanto un attaccante accentui buttandosi. Questo è uno sgambetto netto. Sì, ecco, il problema è secondo me più che altro al VAR. In campo può anche sfuggire questo episodio, nel senso che ci può essere il dubbio che il difensore abbia toccato il pallone e l'abbia allungato lui verso il portiere. Però Nasca quest'anno deve registrarsi un attimo, perché dopo Milan-Roma la settimana scorsa, anzi nel turno infrasettimanale, ha consigliato uno field review in Spezia-Bologna all'ultimo minuto, che francamente era molto, molto, molto forzata. E poi non ha richiamato uno field review in questo episodio. Torino-Bologna 1-1, Pasqua arbitro, Maresca al VAR, partita che era sotto i riflettori dopo le grandi polemiche sugli arbitraggi delle partite del Torino. Io mi sono segnato, Luca, due episodi. Primo tempo, un contatto tra De Silvestri e Belotti in area di rigore del Bologna, Belotti che ha reclamato il rigore. Una richiesta secondo me infondata, perché entrambi i giocatori si sono tenuti, si vede ampiamente dalla camera della Goal Line Technology che Belotti si aiuta molto tirando la maglietta del difensore. Sicuramente c'è anche un'infrazione da parte del difensore, ma in questi casi si lascia correre perché c'è un doppio fallo. 35esimo del secondo tempo, ancora Belotti protagonista su una trattenuta con Tomiasu. Uguale, la maglia si vede allungarsi dalla spalla destra di Tomiasu, anche in questo caso corretto lasciare correre, perché in circostanze nelle quali ci sono due infrazioni identiche sarebbe troppo penalizzante per qualunque fischio, sarebbe penalizzante o per l'attaccante o per il difendente. E poi chiudiamo con Fiorentina-Verona 1-1, intanto è finito il primo tempo a Bergamo, 1-0 per la Roma. Fiorentina-Verona 1-1, Furno arbitro, Giacomelli al VAR. Ora bisogna capire che cosa è successo sul rigore dato al Verona dopo due minuti ma tirato all'ottavo, perché ci sono voluti 5 minuti e 50 tra check e on field review. Guarda, questo è un episodio che è stato gestito male in generale. Questo non è un episodio on field review, è un rigore a mio parere che non c'è, un contatto però c'è stato, è uno di quegli episodi che avrebbe dovuto essere discusso semplicemente alla moviola. L'on field review è stata molto forzata, ma a quel punto, una volta riviste le immagini, Forno non può confermare questo calcio di rigore perché non c'è. Ecco, questo secondo me è un errore, è un pasticcio completo, nel senso che l'on field review non doveva essere consigliata, ma una volta che l'arbitro viene chiamato all'on field review e rivede le immagini non può confermare quella rete. È un po', ricordi l'episodio di Lazio-Bologna? Sì, con Esattamente, cioè in quel caso l'on field review non doveva essere chiamato, una valutazione del campo e quella doveva rimanere, ma una volta che l'arbitro viene richiamato all'on field review, come fa a non vedere quel fallo? In questo caso è lo stesso concetto al contrario, una volta che viene erroneamente chiamato all'on field review, come fa un arbitro a confermare un rigore che non c'è? Resta poi quasi 6 minuti, ne sono stati recuperati 4 nel primo tempo e sì, i conti non tornano. Diciamo una cosa, Forno, prima o poi doveva arrivare la prima partita negativa di Forno, è arrivata. Non è nessun problema, può capitare. Sta facendo una grande stagione, ieri male. Assolutamente, può capitare. Purtroppo capita a tutti gli arbitri una partita storta. Ha reso 4 perfino Ronaldo. Quindi, altro giorno. Può prenderla anche Furno. Maluccio anche sul rigore per la Fiorentina, lo definisco io rigorino. Ecco, esatto, andiamo avanti. Invece ho 30 secondi per la mancata espulsione di Bonaventura, secondo giallo, gomitata la seconda su Ceccherini. Lì l'arbitro non ha visto proprio niente, tanto è vero che non ha fischiato. In questo caso, in quel caso doveva aiutare il quarto ufficiale che era nella posizione perfetta, però capisco anche che sia difficile per un quarto ufficiale intervenire in una situazione di questo genere che sostanzialmente poteva cambiare la partita. Detto ciò, doveva intervenire, è cartellino giallo abbastanza evidente per imprudenza, perché il braccio chiaramente non è volontario quel colpo, ma il colpo c'è stato. il VAR non può intervenire, lo sappiamo, perché si tratta di un'ammunizione, non di una espulsione per vigore sproporzionata o condotta violenta. E quindi il VAR nulla poteva. Grazie Luca. Ciao Luca. A voi, buon lavoro. Ciao ciao. Ciao, grazie e anche buon Natale. Noi ritroveremo anche nel 2021 tutti convocati a partire da domenica 3 gennaio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e alla fine di questo 2020. Abbiamo ancora da raccontare 45 minuti di Atalanta-Roma. E lo farà Dario Ricci nei notiziari della serata di Radio 24, così come racconterà la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Poi in settimana l'ultimo turno, la 14ª giornata, prima di una mini sosta, veramente mini, in questa stagione molto compressa, e da lì in poi sarà una lunga volata verso maggio. Io ti saluto Carlo. Ciao Giovanni. Saluto anche e ringrazio Marco Santoro e Tomas Rolfi in redazione per questa puntata, Andrea Roccabella e Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento con tutti i convocati domani dopo il GR delle 14, mentre tutti i convocati weekend torna domenica 3 gennaio alle 17, rigorosamente in diretta. Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti!